Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa volta parliamo di un libro che riguarda direttamente l'economia, perché riguarda quello che è il motore dell'economia, il motore del commercio, la pubblicità. E alla pubblicità hanno dedicato un libro Paolina Testa e Federico Unia, che abbiamo qui con noi. Buonasera, buonasera Unia. Buonasera. E si chiama Pubblicità, i vizi capitali, un libro edito da Giuffrè, in cui ci sono una serie di saggi che proprio prendono in esame i diversi vizi capitali: l'invidia, l'accidia, l'ira, l'avarizia, la gola, la lussuria, la superbia, e in cui in questa prospettiva viene visto il mondo pubblicitario. E proprio dedicato alla superbia c'è un saggio di Antonio Catricalà. Buonasera Catricalà. Buonasera a voi in studio. Grazie mille di essere con noi. Presidente dell'autorità antitrust, dell'autorità di controllo sul mercato e la concorrenza. Allora io partirei da Unia, perché guardare la pubblicità secondo i vizi capitali. Sì, l'idea di questo volume è nata partendo da una valutazione, cioè la pubblicità fino ad oggi è seguita prevalentemente per quanto riguarda le applicazioni che delle norme di legge e dei codici vengono fatte. L'idea di questo libro è partita invece dall'analisi del fenomeno e del valore che hanno assunto nel Medioevo i vizi capitali, che non dimentichiamo erano delle regole con delle connesse sanzioni, e abbiamo fatto un percorso chiedendo a dei giuristi di vedere e di interpretare quali fossero oggi le forme più diffuse di peccato pubblicitario, e quindi vedere quali sono le figure più frequenti di illeciti. In fondo parlare dei difetti della pubblicità, però per esaltarne le virtù. Assolutamente, assolutamente. L'idea di fondo è che la pubblicità è sempre più importante nell'attività delle imprese e nell'attività di informazione. Nel farla bisogna però essere attenti a non violare alcune regole che poi sono quelle che disciplinano il settore. Ecco, è il primo vizio della pubblicità, ma anche del vivere comune, e anche il primo vizio che viene elencato in questo libro è quello della superbia, e su questo tema si esercita Antonio Catricalà, presidente dell'autorità antitrust, che parte proprio dicendo elogio della superbia. Allora, presidente Catricalà, perché dobbiamo elogiare la superbia? Ma intanto vorrei ringraziare Testa e Unia di avermi consentito di partecipare a questa iniziativa editoriale molto simpatica, e anche di avermi fatto scegliere il vizio capitale di cui parlare. Io ho scelto la superbia perché ritengo che prima di tutto vada elogiata la sana superbia, cioè quell'ambizione legata al merito, e quindi, parlando di pubblicità, la voglia di far capire quanto è pregevole, qual è il merito, qual è il valore del prodotto che viene posto in commercio, anche per dare soddisfazione a chi ha lavorato intorno a quel prodotto, e quindi è una superbia legata all'autore, al copyright, ai suoi diritti. Ecco, lei ha una competenza diretta come authority antitrust sulla pubblicità, soprattutto sulla pubblicità ingannevole. Quando la superbia diventa un po' eccessiva, quindi bisogna che la superbia sia... Questa superbia in realtà è una finta umiltà molte volte, perché è una non accettazione della pubblicità vera, della pubblicità comparativa, del porsi in sana competizione con gli altri. Qui si tratta di ottenere dei risultati senza il rispetto delle regole. Quindi noi stiamo parlando di chi fa delle scorrettezze commerciali, e chi fa scorrettezze commerciali è scorretto non solo verso i consumatori, ma è scorretto verso tutti gli altri attori del mercato, soprattutto verso coloro che si comportano correttamente e che fanno una buona pubblicità. In realtà noi poi non perseguiamo solamente la pubblicità ingannevole, perseguiamo anche la pubblicità comparativa non veritiera, e abbiamo molto a che fare con intese e abusi, perché il vero superbo è colui che poi pensa di essere esente da qualsiasi giudizio e da qualsiasi sanzione. Per esempio, il monopolista ritiene di essere lui a dover dettare le regole, e quando fa la sua pubblicità, quando fa intendere agli altri che lui è l'unico sul mercato, può anche permettersi delle sbavature. A quel punto noi interveniamo, perché pensiamo che ci debba essere un contropotere forte che non può essere dato dagli altri concorrenti del mercato perché non esistono, sono troppo deboli e costoro abusano due volte perché abusano della loro posizione di dominanza e abusano della debolezza di tutti gli altri e quindi in quel caso noi siamo molto più severi. Ecco, quindi controllare e garantire una pubblicità veritiera è un po' permettere al mercato di funzionare, garantire alla concorrenza di essere reale. La pubblicità è uno strumento insostituibile di concorrenza e quindi di libertà per i cittadini di scegliere. È ovvio che fare di questo strumento così importante un cattivo uso e un mal governo delle possibilità che questo strumento offre significa rendere asfittico il mercato perché si toglie la fiducia che i cittadini devono avere verso i produttori e verso gli stessi pubblicitari, perché poi una grande responsabilità è loro affidata, quella di interpretare i desiderata del pubblico, quelli di interpretare i desiderata dell'azienda che si pone al giudizio del pubblico e di saper scrivere un messaggio che sia allo stesso tempo illustrativo delle qualità del prodotto, sintetico perché gli spazi anche temporali in genere sono molto ridotti, ma nello stesso tempo veritiero e che possa dare, ispirare fiducia, quindi un senso di tranquillità quando noi vediamo uno spot televisivo, poter dire sì, è vero, questo sconto lo otterrò per 10 mesi, ma è sufficiente per poter scegliere questo prodotto, mentre se leggo che quello sconto è per sempre, mi viene il dubbio che non ci sia nemmeno lo sconto. Ecco, indubbiamente. Ecco, in questa prospettiva, Presidente Catricalà, possiamo dire che si sono fatti dei passi avanti negli ultimi anni su un fronte della conoscenza, competenza e anche rispetto delle regole di mercato da parte degli operatori, cioè il mercato in Italia sta crescendo? Secondo me sta migliorando, molte aziende hanno costituito proprio degli uffici di tutela del consumatore e di compliance antitrust, il che mi conforta, e molte aziende vengono qui a portare documenti approvati all'interno dell'azienda che devono orientare gli uffici commerciali e molte aziende sono disponibili a sottoporsi anche a giudizi preventivi da parte dell'antitrust. Purtroppo noi non siamo un'autorità che dà autorizzazioni, non vogliamo trasformarci neanche in una censura preventiva, però l'idea, ecco, di incontrarsi ogni tanto per vedere le grandi linee di un'attività commerciale, un'attività pubblicitaria, non dispiace per nulla né a me né ai miei uffici. Allora vorrei chiedere anche a Federico Unia se tra questi vizi capitali, tra gli altri vizi capitali, ce n'è qualcuno particolarmente rilevante. Io direi che guardando alle attuali manifestazioni pubblicitarie ve ne sono alcune che possono essere seguite con più interesse. Innanzitutto l'attenzione che viene posta a non sfruttare lo stato particolare di debolezza psicologica del consumatore. Qui noi abbiamo un orientamento che l'autorità antitrust va affermando di particolare sensibilità con riferimento a certi prodotti che sfruttano proprio il desiderio, l'attenzione che i consumatori possono avere nel raggiungimento di certi risultati. L'altro punto importante è quello relativo, e qui se ne vedono i primi effetti, all'inserimento nei messaggi pubblicitari televisivi di eccessive e contemporanee informazioni che disorientano molto spesso lo spettatore. Qui vediamo che le aziende stanno, nella filosofia illustrata dal Presidente, andando incontro a una maggiore semplicità, una maggiore chiarezza proprio per far comprendere tutti gli aspetti dell'offerta. Presidente Catricalà, quali passi in avanti potremmo ancora fare sul fronte proprio dell'aumentare la concorrenza del sistema italiano, aumentare l'efficienza e la trasparenza del mercato? Ma intanto l'autorità chiede più poteri, questo potrebbe sembrare anche una banalità, ma noi abbiamo l'opportunità adesso di chiedere al Parlamento una legge che sia proprio fondata su principi concorrenziali, una legge annuale, è una novità dell'anno scorso, e lì chiediamo di poter intervenire anche sui contratti pezzi di sedio, di massa che tutti i cittadini sottoscrivono, sottoscriviamo quasi quotidianamente, per esempio entrando in metropolitana, salendo sull'autobus, prendendo un treno o semplicemente sottoscrivendo un contratto di assicurazione o di fornimento di gas, luce elettrica, acqua e quant'altro. Chiediamo anche di poter istituire un osservatorio sulla pubblicità televisiva tale da consentire alle aziende, una volta avvertite, di modificare entro 7 giorni il messaggio senza avere alcuna sanzione. Chiediamo anche di poter tutelare le piccole e le medie imprese dalle grandi e anche da atti della pubblica amministrazione che a volte pongono limiti e vincoli al legittimo esplicarsi della concorrenza. Purtroppo il nostro è ancora un paese molto molto ingessato. Laddove c'è pubblicità c'è da ritenere che il sistema sia di per sé competitivo, perché la pubblicità si fa certamente per lanciare un prodotto, ma anche per sostenere la ragione di quel prodotto rispetto all'analogo prodotto di un concorrente. Quindi la pubblicità è più forte ed è più, diciamo, deve essere considerata con maggior favore laddove il sistema è già competitivo. Purtroppo poi succede che appunto dove c'è molta competizione i pubblicitari tendono a proteggere troppo il loro cliente, magari dicendo non chiaramente quali sono tutti i pregi di quella offerta commerciale. Questo talvolta succede nella telefonia, ma certo, succede anche in altri settori in cui c'è una concorrenza spinta. Noi molto spesso però siamo contenti che ci sia una concorrenza che avviene anche in maniera forte, perché laddove c'è la lite, c'è la vera contesa, vuol dire che c'è concorrenza e i prezzi si abbassano naturalmente senza nessun intervento dall'alto. Anche noi siamo molto contenti quando c'è una grande pubblicità. La pubblicità è in fondo una delle fonti principali, anzi l'unica fonte di reddito di una radio come la nostra, e la pubblicità va vista come un elemento positivo, un elemento che fa crescere il mercato e quindi favorisce poi tutti i consumatori fornendo loro dei servizi a prezzi più bassi e a qualità migliore. Questo almeno è il nostro auspicio. Io ringrazio il presidente dell'autorità antitrust Antonio Catricalà, che ha presentato con noi il libro di Federico Unia, che è stato anch'egli con noi, e di Paolina Testa, Pubblicità, i vizi capitali, edito da Giuffrè Editore. Sono 200 pagine, 17 euro. È un libro appunto dedicato all'analisi in prospettiva della pubblicità come elemento del mercato, con tutti i difetti ma anche con tutti i pregi che ha. Grazie in regia a Fabio Cantadori, in redazione ad Anita Panizza. Questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Buona serata a tutti.